Io avrei bisogno di voi per fare il punto sulla melatonina. Abbiamo parlato di ritmi, spesso la melatonina viene assunta per in qualche modo rimediare, risolvere la sindrome da jet lag, ma ci sono persone che si affidano alla melatonina, l'acquistano senza problemi in farmacia e diventa per loro il modulatore, il riequilibratore del loro sonno. Professore, ci sono tante richieste da parte dei nostri ascoltatori che mi chiedono: ma fa bene, fa male, Allora, quali dosi, ci sono delle controindicazioni, ci aiuta a capirne di più? la melatonina serve veramente in maniera, diciamo così, provata nei soggetti che hanno un disturbo del ritmo sonno-veglia, cioè in altri termini i soggetti cosiddetti gufi, quelli che non andrebbero mai a dormire e che si alzano chiaramente poi molto tardi al mattino, ecco, questi soggetti possono trarre un giovamento dalla melatonina. Possono trarre giovamento dalla melatonina anche i soggetti, ad esempio, anziani, perché la melatonina diminuisce come diciamo, quantità secreta andando avanti con gli anni. E quindi anche i soggetti anziani, per cercare di regolarizzare il proprio ritmo sonno-veglia, possono trarre beneficio dalla melatonina. La melatonina però non è un ipnotico vero e proprio. Il problema fondamentale è che molta gente assume la melatonina pensando che possa avere lo stesso effetto di un classico ipnotico, no? Quindi dicono non prendo il farmaco X, piuttosto prendo la melatonina. Ecco. Ecco, questo è, cioè, la grossa, mi dispiace deludere questa gente, ma non possono pensare di ottenere dalla melatonina gli stessi effetti di un tipico ipnotico. La cosa importante poi è il momento di assunzione della melatonina. La melatonina non va assunta al momento 10 minuti prima di andare a letto. Una funzione che sicuramente è importante e che può svolgere in tutti è quella di rallentare tutte le funzioni del nostro organismo. Quindi, in un certo senso, permettere con questo rallentamento globale, permettere un più facile scivolamento verso il sonno. Quindi allora la melatonina, ricordiamoci, non dobbiamo assumere, se noi andiamo a letto per dire mediamente alle 11:30, alle 23:30, non assumiamo la melatonina alle 23, ma magari alle 21:30, perché in questo caso la melatonina è in grado di creare questo globale rallentamento e quindi favorire il sonno.